che oggi si è tenuto a Roma il convegno dell'ANCE, che è l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, e dove hanno partecipato, oltre a costruttori di tutta Italia, tra cui anche nomi abbastanza famosi di questo settore come Caltagirone a Roma o Mezza Roma, hanno partecipato anche il sindaco di Torino, il sindaco di Catania, il sindaco di Roma non ha potuto partecipare, ma ci sono diversi assessori e amministratori che si occupano anche di costruzione. Noi siamo venuti a questo convegno perché sappiamo benissimo che questi convegni sono in realtà dei tavoli di confronto, ma di trattativa poi realmente tra amministratori e costruttori su come ridisegnare e ricostruire le città. Noi crediamo che a questi processi, che sono comunque in qualche modo sempre decisionali, ci debba essere anche la voce di chi nelle città lavora, abita e vive anche i problemi legati allo stare dentro delle metropoli che costantemente vengono stravolti da un'edilizia selvaggia. Dopo che stamattina abbiamo bloccato l'inizio dei lavori di questo convegno, cioè ci siamo in pratica messi davanti alle entrate compagni degli centri sociali, famiglie degli occupanti di Action, Comitato Popolare di Lotta per la Casa, ci siamo messi a fermare i lavori, nel senso che abbiamo impedito allo stesso di entrare. Si avvia una trattativa con le forze dell'ordine e con il presidente dell'ACER, Silvano Susi, per fare in modo che qualcuno di Action potesse intervenire, una delegazione potesse entrare a portare la voce delle persone che vivono nelle città e che stanno avendo dei problemi sociali. Ha parlato Fabrizio Nizzi per noi come Action, ha fatto un intervento per il quale è stato anche ricevuto in realtà l'applauso di molti costruttori, e questo sì perché comunque c'è in realtà una fascia di costruttori che è interessata a lavorare su per esempio progetti come la terza tipologia abitativa, cioè quella del canone sociale, che hanno comunque idea che dei passaggi diversi più partecipati anche dalla popolazione su come disegnare quartiere e città può essere fatta, e per cui è stato anche un modo per trovare contatti nuovi per avere nuovi tavoli di confronto, è stato anche forse il modo per mettere a frutto il lavoro che Action da un anno fa con il comune. Sicuramente il fatto che è bastato bloccare questo convegno e farci entrare senza troppi problemi è anche segno del fatto che il lavoro che si è fatto è importante e riesce a colpire anche sulle proposte, quindi non è solamente un fatto di contestazione, però effettivamente le proposte stanno cominciando a mettere in crisi anche un sistema di elite come quello dei costruttori, e forse è l'inizio per cominciare a rivedere un po' meglio i quartieri e le città in un modo più partecipato, in cui ci sia veramente un potere anche dei cittadini nel decidere delle scelte o dove va o non va quel supermercato o quel palazzo.